fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Torniamo a parlare all'interno della nostra radio e lo facciamo con lei, con un'altra grande protagonista di questa serata, o capiremo meglio, insomma, cosa è successo, com'è andata, soprattutto perché si trova qui da noi. Intanto potete anche gustarvi, chi lo sa, il loro bel visino, i loro bei vestiti, le loro belle coroncine rosa di fiori, fiorate, tramite le nostre webcam, quindi sul nostro sito, e avranno anche questo bel ricordo, speriamo, di questo bel momento qui da noi. E soprattutto stiamo festeggiando questa fantastica ragazza che vedete al centro, la nostra sposa Erika, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, Erika, questo l'ho già detto io, come sottolineavamo all'inizio dell'intervista, con la C, perché so che ci tengono. Esattamente. Come l'Emanuela Manuela, che ci tiene sempre a specificare se è con la E o senza E, quindi è giusto sdinarlo. Erika con la C, da dove vieni, Erika? Allora, io vengo da Palazzolo, che è una città in provincia di Brescia, una bellissima città. Sei candidata domani? No. Stavi già partendo sulla strada del comizio elettorale, no, quindi immaginavo che fossi... Tranquillo. No, però... Poi... È giusto, dillo. A noi piace parlare, rimanere, come dire, nei localismi, e quindi anche parlare delle cittadine. Pare che Palazzolo cittadina così tanto non è, nel senso che è già un bel centro, però è giusto anche ricordare i paesini, è giusto anche ricordare le piccole località. E quindi vai, raccontaci pure il tuo amore per Palazzolo. Il mio amore per Palazzolo è cominciato quasi 12 anni fa tramite un bar. Lì ho conosciuto quella che adesso è una delle mie testimoni. Sembra già un libro, è già una storia per un libro. E le altre damigelle le ho conosciute lì. Ho conosciuto anche quello che diventerà mio marito. Ma cos'è? È il sito di Tinder, quel bar lì praticamente. Ah no, tu non c'eri. Palazzolo nel cuore. Immagino, ma tu eri un'indigena, eri una straniera, cos'eri in quel momento? No, io ci sono passata per caso. Quindi eri proprio straniera. Esatto, alla festa di fine scuola, quindi è stato assolutamente un caso. Lì ho cominciato a fare delle amicizie che sono durate, stanno durando. Fantastico, fantastico. Ecco, questo anche per dire a tutti gli ascoltatori o futuri tali, che se vi capiterà mai un giorno in una scena tipo come dire Cristoforo Colombo di vedere una ragazza in piazza Palazzolo che bacia l'asfalto, non è perché ha dei problemi vari, ma perché proprio è innamorata della sua città e quindi bacia proprio la strada in cui cammina, perché vuole esprimere il suo amore per Palazzolo. Però è bello, perché solitamente non si parla di un attaccamento al proprio paese, ma lo si vive un po' in maniera scontata, nel senso, sto lì per vari motivi, lavorativi, d'amore, per quello che è. Anche proprio tutto, lavoro anche lì. Sì, però nel senso, di solito non si parla in modo così importante, con tanto attaccamento al proprio paese, proprio perché non è una scelta, ma... come dire, derivante da tanti fattori che te lo danno, come dicevo, un po' per scontato. Mentre è bello sentire proprio questa passione, questo attaccamento, come dicevamo prima, anche per dove si sta e dove si abita. Esatto. E sei qui a festeggiare cosa, anche se già un po' l'ho svelato e anticipato? Allora, siamo qua a festeggiare il mio addio al celibato. Meno male. Già mi stavo spaventando che avevi un'altra storia che aveva a che fare con la mia testimone, nonché sorella Patrizia, l'altra testimone Valeria e un'altra delle mie amiche che mi farà da damigella, Giulia. Wow, che bello, quindi diciamo il trio delle meraviglie, nel senso... Esatto, assolutamente. Nel senso, se non per nulla togliere agli altri, però sembra le tre persone chiave della tua cerimonia e magari anche della tua vita, chi lo sa. Assolutamente. Sì. Bene, anzi, grazie che ce l'hai anche presentate, così almeno le abbiamo conosciute. E speriamo che ci sia qualcuno ad aspettarti all'altare. C'è? O vengono solo speriamo loro? Speriamo di sì, nel caso mal che vada ci sono loro tre, quindi. In qualche modo si fa. Beh, diciamo, eventualmente dovesse presentarsi qualcuno, chi si presenta? Spero mio marito. Che si chiama? Christian, perfetto. E no, raccontaci a questo punto del vostro incontro, perché se davvero è stato così da bar, quell'incontro da bar, intanto con quanto tempo di distanza si è manifestato questo incontro rispetto a loro? Allora, lui è stato per primo, però io mi sono presentato un amico in comune, ma lui non è come sempre va non era assolutamente in vena, quindi fa un piacere. Poi si è girato dall'altra parte continuando a parlare con la sua comitiva. Ok, quindi diciamo poi... non c'è stato colpo di fulmine, non c'è stato... No, però poi pian pianino ci siamo... Ma tu già invece avevi sentito qualcosa o ti era rimasto abbastanza anonimo? Qualcosina, ma non è assolutamente un colpo di fulmine. Ok, nulla di importante. Esatto, poi ci siamo rivisti le sere successive e pian pianino poi ho conosciuto anche Valeria per prima. E poi il resto della compagnia pian pianino. Bello, bello, veramente bello. Adesso vorrei anche, cioè, anzi, mi sembra strano che non sia qui il gestore del bar. Cioè, immaginavo avreste invitato anche lui. Perché? Non si fa così. Non si fa? Ah, ok. No, perché? Ah, ok, no, perché a questo punto pensavo che... No, nel senso che è stato veramente importante allora questo luogo. Sì. Vabbè, insomma, dai, soprassediamo. Poi, allora, secondo te, cos'è che poi vi ha fatti, come dire, ha fatto scoccare quel qualcosa in più, visto che all'inizio c'è stato un po' di anonimato tra di voi? Allora, in realtà è un po' strano, perché è una storia che si susegue da quasi 11 anni. Lui è stato il primo morosino. Ah, sì? Anni fa, ma è durato pochissimo, circa 2 o 3 mesi, perché non avevamo la testa, avevamo in mente tutt'altro. Sì. Siamo comunque rimasti amici per un sacco di anni e poi 3 anni fa... Ma c'è stato anche qualche contatto nel frattempo? Sì, assolutamente sì. Ah, ok. E anni fa niente, ci siamo rivisti. Siete partiti e non vi siete più fermati. Esatto. Oh, bene, vuoi dirgli qualcosa? Vuoi approfittare del microfono per mandargli un messaggio? Allora, io so che lui in questo momento sta facendo il suo addio. Ah, ok, quindi in contemporanea. Non so dove, non so con chi, ma lo sta facendo. Quindi, niente, dai, so che comunque starà facendo il bravo. Speriamo, incrociamo le dita. E che sono fortunata tanto ad averlo nella mia vita e che non vedo l'ora che arrivi il 29 per diventare sua moglie. No, bello, guarda quanta tenerezza, le brillano anche proprio gli occhi. A questo punto vuoi dire anche qualcosa a loro, che immagino ti abbiano portata qui questa sera, quindi abbiano organizzato anche, speriamo, questa bella festa per te? Allora sì, assolutamente grazie a tutte e tre. Perché vi voglio davvero tanto tanto bene, in maniera diversa, in maniera importante a tutte. Grazie davvero, perché so quanto vi siete impegnate per tirare insieme questa giornata e siete nel cuore, da lì sicuramente non vi sposterete. Mamma mia, bellissimo. C'è una bellissima frase che ci tengo a sottolineare. Vai. Lo ripeto. Adesso vediamo se me la ricordo, perché l'alcol fa un pochino il suo effetto, ma è: conta chi resta, il resto non conta. Bello, bello, dopo le ultime due frasi. Tra l'altro ci è appena arrivata una telefonata, ve lo posso svelare, di Laura Pausini, che ha chiesto che vuole assolutamente inserirle nel suo prossimo singolo, perché sono proprio frasi da Laura Pausini e quindi... Perfetto. No, belle, ci sta, però poi mi piace, perché questa ragazza trasmette anche solo con gli occhi, anche se non l'avessi guardata o l'avessi solo sentita, trasmette una forte sincerità e un forte proprio sentimento sincero, vero, reale, ed è molto bello. Cioè, non sono parole di circostanza, ma si vede che sono veramente sentite. Questo è davvero molto bello. Immagino che anche da parte loro ci sia altrettanta soddisfazione e orgoglio nell'averti qui questa sera e nell'esserti vicina, soprattutto nella sorella, che adesso potrà guardare la televisione scegliendo che canali guardare, perché prima magari c'era un po' di conflitto. No, Ida, l'ha detto lei. No, adesso non svegliamo così, anche perché non penso serva la televisione per quello, no. Si possono usare altri canali. Comunque sì, soprassediamo. Sorella, vuoi dire qualcosa? Lei? Magari ha un microfono, così ti sentiamo. Beh, allora possiamo anche fare la posta del cuore. Ah no, okay, magari eri a caccia. No. Li ho visti crescere, nel senso che li ho visti quando erano piccoli, che si piacevano, non si piacevano. È una cosa che è durata non 10 mesi, ma 10 anni. Sì, come diceva lei. Quando li guardo insieme, che si fanno le cose pure, che si fanno gli innamorati, che mi danno fastidio. Sì. Se non guardare loro, non sento che sono innamorati. E quindi... Ti sembrano naturali, reali? Grazie. Bello, guarda che bello. Siete un bel gruppo. Io quando posso avere i vostri numeri, quando ho bisogno di frasi belle vi chiamo e vi faccio una domanda qualsiasi e voi rispondete con una frase bella. perché il mondo è troppo pieno di persone brutte, di frasi negative, no? Di sentimenti negativi. Invece voi, come dire, sparate fuori tanta positività e tanta sincerità, o soprattutto tanta trasparenza, ecco, positiva, e quindi siete anche un buon carburante, ecco, questo mi fa piacere dirlo. Allora, grazie a voi, grazie a lei soprattutto, è inutile farle l'imbocca al lupo e gli auguri per quello che succederà, perché mi sembra che sia già tutto ben predisposto. Grazie e mille. Mi sembra che le intenzioni e le premesse siano assolutamente più che buone, perché prima di tutto serve il desiderio e la volontà di fare questi passaggi, e mi sembra che qui ce ne siano a padelle, proprio a badilate, e quindi in bocca al lupo per tutto, e grazie ancora per questa bella serata insieme. Grazie a te, ciao. Ciao. Ciao.